Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, migliore in campo del fine settimana Serse Cosmi, su questo direi che non c'è dubbio. Stava facendo benissimo a Livorno, ma ancora non bastava, doveva anche far la faccia felice se gli vendevano il più forte della squadra, non certamente della Juve dove è andato, cioè Candreva, e non far giocare Lucarelli su ordine del presidente. Non è nuovo Spinelli a questo genere di imprese. Ricorderete che qualche anno fa cacciò Donadoni in piena zona UEFA con Livorno, forse perché pretendeva la Champions, probabilmente. Con l'arrivo di Mazzone il Livorno precipitò, letteralmente precipitò, ma aveva fatto talmente tanti punti all'inizio con Donadoni che riuscì ugualmente a salvarsi. Ora ci risiamo, ma la differenza quest'anno è che i punti sono pochini per salvarsi. È stata la domenica dell'Inter, così come quella di sabato era stata la serata della Roma, un derby che sarebbe stato splendido perché erano bastati pochi minuti per capire che sarebbe stata una grande serata con un Inter strepitosa, ma chissà come sarebbe andata se a rovinarlo non avesse provveduto il pessimo arbitro Rocchi. I voti dei quotidiani di stamane: Corriere della Sera, i voti a Rocchi, Corriere della Sera 4, La Stampa 3, Repubblica 3, Gazzetta dello Sport 4, Corriere dello Sport 4. Per una volta c'è unanimità. A proposito di questi quotidiani, che è poi l'altro spunto, uno degli altri spunti possibili per oggi, già che li sfogliavo per tirar dietro, per prendere nota di questi numeri, mi sono divertito a guardare quale sarà, secondo ciascuno di questi quotidiani, il successore di Ferrara alla guida della Juventus. Allora, per il Corriere della Sera, Utrapattoni o Gentile; per La Stampa, Hiddink; per Repubblica, o Zaccheroni o Carrera, responsabile del settore giovanile della Juve, o addirittura Sacchi. Per la Gazzetta dello Sport, a Ferrara succederà Ferrara, nel senso che sembra, secondo la Gazzetta, la posizione di Ferrara non è ancora così definitivamente compromessa, e in alternativa lo stesso Carrera, già visto su Repubblica, o Vialli. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito è Hiddink, ma senza escludere Zaccheroni, Vialli, Juan de Ramos e Van Basten. La Juve nel frattempo ha dovuto sospendere la seduta allenamento di stamane per neve a Torino, e in genere sul Piemonte nevica. Bettegger insieme alla squadra, i nomi che si fanno sono gli stessi. Sicuramente ci sono, dato che in genere piove, anzi nella fattispecie nevica sul Bagnato, ci sono Del Piero, Amauri, De Celi e Zebina alle prese con l'influenza. Per completare il panorama di notizie che riguardano la Juventus, sarebbe arrivata a Hiddink, secondo un tabloid russo la cui attendibilità però è sempre tutta da verificare, sarebbe arrivata una nuova offerta a Hiddink proprio dalla Juventus, che avrebbe alzato l'offerta dai 3-5 milioni di euro alla stagione della prima proposta fino ai 5 milioni attuali, ma ripeto, va preso con le molle come spesso si fa con i tabloid. Qualche numero significativo. Per trovare un Inter che chiude un derby in 9 bisogna tornare indietro al 19 gennaio 64, Inter-Milan 0-2, però in quel caso espulsi niente meno che Suarez e Corso. Il feeling speciale di Milito con i derby: lo scorso anno segnò 4 gol con la maglia del Genoa alla Sampdoria nelle 2 partite, quest'anno ha timbrato sia all'andata che al ritorno. I segni di insofferenza di Fabio Cantadori in regia sono sempre più evidenti, perché Fabio Cantadori, quando il Milan perde, diventa Rudy, come sapete, come sapranno i fedelissimi, quando il Milan vince. Nelle 4 sconfitte in campionato il Milan ha subito 9 gol senza mai segnarne uno, e questo potrebbe essere un segnale di difficoltà a reagire contro squadre che mettono sotto il Milan. L'Inter nel frattempo ha gli stessi punti dello scorso anno, con la miglior difesa 45, con il miglior attacco 45 gol e la miglior difesa 19. Ci saranno ovviamente molti vostri interventi oggi, alcuni sono prenotati da tempo, abbiamo molte voci da sentire. Io darei subito spazio a 2 mail che dimostrano, che sono arrivate una in prima mattinata e una poco fa, e che dimostrano come spesso i tifosi, perlomeno a Milano, siano migliori, se non molto migliori, dei dirigenti. Sentite questa di Roberto Mori. Da interista dovrei restare il mio cantuccio a godermi 6-0 in due partite che nemmeno nei sogni più sfrenati mi sarei aspettato, ma non riesco a togliermi dalla testa i comportamenti della società. Passi per Mourinho, Riali e compagnia cantante, che si lamentano di torti arbitrali a ogni piè sospinto, essendo questo il vero sport nazionale. Mio figlio di 9 anni si lamenta dell'arbitro della PlayStation. Che perlomeno fanno il paio queste proteste con quelle di sudditanza psicologica delle altre squadre, ma che Maicon si faccia espellere alla vigilia della partita con la Juve al 90esimo con risultato in cassaforte e che per la stessa ragione Snyder se ne vada dal campo in pieno derby mi lascia almeno perplesso. Le cose sono le due: o la società abbaia la luna senza crederci, oppure, se davvero pensano al complotto, dovrebbero farsi quattro chiacchiere in spogliatoio e insegnare ai loro strapagati professionisti, se non l'educazione, almeno la furbizia, per evitare shock e espulsioni. Roberto Mori, interista. Duccio Bergamo scrive: sono milanista da sempre, ieri fortunatamente non ho potuto vedere la partita per motivi familiari, ho visto questa mattina gli highlights in internet e devo proprio dire che l'arbitro di ieri sera ha fatto di tutto per farci pareggiare la partita. Espellere un giocatore per un applausino in una partita del genere è incredibile, ammonire un giocatore che si rialza subito senza tante scene e lussio è incomprensibile. Questa volta l'Inter ha vinto contro tutti e contro tutto, brava Inter. Duccio Bergamo, milanista. Spazio dunque ai vostri interventi, a cominciare da Mario, ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, sono Mario da Bergamo, tifoso dell'Inter, non sono parente di Rocchi, perché vorrei assolverlo, nel senso che con 80.000 spettatori che urlano, 22 furbi in campo e una panchina della mia squadra sempre oltre la riga del terreno di gioco, lo assolverei per due errori che tutti hanno condannato, però ci può stare. Sull'espulsione di Snyder, giustissima, vorrei dire un paradosso, non so se lei è d'accordo, perché secondo me con Snyder in campo l'Inter avrebbe continuato a fare la sua partita e pian piano il Milan, che gioca un calcio abbastanza bene, ne avrebbe tratto vantaggio, non avrebbe trovato una difesa che faceva muro nella tre quarti e non è riuscita a fare altro che passaggi laterali. L'ascolto per radio, la ringrazio. Beh, questa mi sembra un po' paradossale, mi sembra un po' paradossale tutto l'intervento, sinceramente, ma paradossale non vuol mica dire non condivisibile, vuol dire un po' tirato per i capelli, quella di Snyder certamente. Sulla direzione di Rocchi, no, secondo me ieri sera ha praticamente sbagliato tutto, meno una cosa, meno l'espulsione di Snyder, perché se l'è prenotata, cercata, ha fatto veramente l'impossibile per farsi buttare fuori, ma l'espulsione di Snyder è figlia di una decisione cervellotica e provocatoria, cioè io non ricordo in una partita ad alto livello un'ammonizione per simulazione a metà campo come quella combinata a Lussio, che poi Ambrosini l'abbia toccato, non l'abbia toccato, ha fischiato fallo, l'ha fischiato a vantaggio del Milan anziché dell'Inter, Lussio ha preso e è tornato indietro serenamente. Non esiste, se non per smania di protagonismo arbitrale, non esiste andare ad ammonire il giocatore. Poi da lì si innesca una reazione completamente sbagliata di Snyder, che, lei ha ragione, è frutto dell'isteria trasmessa già sin in settimana da Oriali, per esempio. Detto questo, però, dato che Oriali aveva detto per tempo che sentiva puzza di bruciato, sinceramente che questa poi si è tradotta in quello che Mourinho alla fine ha detto, sapore strano piuttosto che amaro, non ricordo bene, ma insomma che sia stato un derby normale, no, questo no, nemmeno soprattutto da un punto di vista di direzione di gara. Davide ha chiamato da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, piacere parlare con lei. Piacere a me. Volevo dirle che, ma adesso io cerco un attimino di modificare il mio intervento, perché era legato anche questo sull'arbitraggio di Rocchi, che devo dire a me non è sembrato, io sono un tifoso milanista, però non ha arbitrato bene, lo premetto, però a me è sembrato che in certe decisioni è stato abbastanza, diciamo, coraggioso, ecco, perché di solito queste simulazioni si dà per scontato che si debba sempre fischiare un fallo a favore e non si debba, come dice lei, ingegnarsi, però dal lato pratico è una vera e propria, un vero e proprio comportamento antisportivo. E lui, Davide, sì. Davide, però facciamo così, contestualizziamo, perché sennò facciamo fatica a capire perché Rocchi ha rovinato la partita, almeno a parere mio e a parere di tanti, comunque dell'unanime stampa italiana. Contestualizziamo: se dopo un minuto lasci andare questa entrata di Ronaldinho, che è nettamente da ammonizione, e quindi decidi che qualcosa lasci correre, lasci giocare, come è la nuova filosofia di quest'anno, poi ammonisci Beckham dopo due minuti perché non vorresti che rigenerasse, fin lì va bene, ma se lasci passare Ronaldinho, poi ci sta anche che uno cada se è lanciato in velocità, no? E senza, anche perché a metà campo cosa fai? Lucri un fallo, e quando hai lucrato un fallo sulla linea centrale non è il tuffo che si fa in area per lucrare un rigore, no? Mi sembra un pochino diverso. È per questo che andare in un caso del genere ad ammonire per simulazione il giocatore, io trovo sia ma non dico provocatorio nei confronti della squadra, perché non voglio assolutamente credere alle sciocchezze che stanno dicendo da ieri sera i dirigenti dell'Inter, ma però la partita la sballi, la rovini, inneschi una protesta, una reazione sbagliata, ma inneschi un'atmosfera sbagliata invece in una partita che era magnifica. Questo dicevo, non so se è d'accordo. Sì sono d'accordo, volevo solo aggiungere un'altra cosa: il derby purtroppo dell'andata ha avuto il suo peso, perché l'Inter psicologicamente adesso potrebbe giocare secondo me anche in otto, ma riuscirebbe sempre a averla la meglio sul Milan, perché questi risultati, questa consapevolezza di forza poi in partite così sono importanti, e si è visto ieri, il Milan non c'era proprio con la testa. Lei ha detto... che l'Inter non ha in Europa, e il Milan ha proprio per una consapevolezza, un'abitudine alla vittoria, l'Inter ce l'ha adesso nei confronti del Milan, e in purtroppo campionato sarà una cosa molto lunga da risalire. Davide, lei ha detto in otto, sentiamo quanti ne bastavano a Mourinho per vincere questa partita. Abbiamo dimostrato tutto. Abbiamo dimostrato che per perdere questa partita solo con 6, se arriviamo a 6 giocatori questa partita la perdiamo, era l'unico modo per perderla, perché con 7 vincevamo uguale. Siamo stati fortunati di finire con 9, siamo stati fortunati che i miei giocatori sono bravissimi, siamo stati fortunati che sono entrati in campo con una cosa sola in testa, che era vincere. E credo che credo che una battuta rese Mourinho, sapete, dal mio punto di vista è sempre eternamente sopra le righe, però secondo me questa battuta ieri sera ci sta ampiamente, perché l'espulsione finale di Lucio, che non avrebbe probabilmente cambiato la partita, ma se entra comunque il rigore di Ronaldinho, che non c'era, se entra il rigore di Ronaldinho, comunque manca 3 minuti alla fine, e a quel punto in 11 contro 9 non si sa mai, probabilmente chi era San Siro sarebbe ancora dentro adesso, no, a prendere freddo, però non è poi così da buttare come ipotesi, e a parer mio dopo una partita del genere e con un arbitraggio del genere non puoi all'ultimo minuto, anzi a tempo già scaduto in pieno recupero, dare un altro rigore d'espulsione se uno si sta riparando la faccia da meno di un metro su una girata improvvisa. È ridicolo questo. Giacomo Messina, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Sono da Messina, sono un tifoso milanista da sempre. Sì. Da quando avevo 9 anni ho pianto quando il Milan ha vinto a Cesena e retrocesso lo stesso in Serie B per una settimana. Niente, le volevo chiedere se esistono giornalisti di una volta che riescono a ribattere le dichiarazioni di Mourinho, che parla di campionato che può essere falsato, cioè nessuno mai gli risponde, nessuno lo contrabbatte, perché hanno sempre paura che poi non viene in sé la stampa, non viene alle interviste. Anche ieri sera Sky, dopo che è andato via, potevamo ribattere, però non c'era più tempo. Sì. C'è sempre queste... Sì, è stato un po' penoso questo ieri sera, sinceramente. Io da Leonardo, lo stile Leonardo che ha messo la sconfitta, ha messo tipo che l'Inter è stata superiore, anche perché per l'Inter il Milan è una manna, perché è una squadra che si sbilancia e favorisce le ripartenze che certo. Per l'Inter sono... Dico, se... Per lei è giusto che Mourinho si comporti in questo modo, che metta sempre le mani avanti con una squadra, l'Inter, che a cui hanno dato uno scudetto 4 anni fa? Beh, adesso senza Giacomo senza, non faccia il Mourinho a sua volta, non faccia il Mourinho postumo soprattutto, fin qua era andato bene. Io trovo che sì, ieri sera sia stato un pochino fastidioso, soprattutto perché bisognerebbe subito ribattere le inesattezze. Cioè, a un certo punto ho sentito Mourinho dire che c'era stato un mancato rosso a Chievo, no? Non era a Chievo, il mancato rosso era a Bari, no? A Chievo c'era stato un rigore non dato al Chievo all'ultimissimo minuto del recupero per un mani clamoroso di Quaresma in area di rigore. Quindi io credo che almeno questo a Mourinho avrebbero potuto precisarlo, mica rinfacciarlo, mica far scattare né lite né risse, ma così per il dovuto rispetto che merita la realtà dei fatti. Se poi lei mi paragona a Leonardo Mourinho, sul piano tecnico lo dirà il tempo, sul piano dell'educazione sportiva io credo che sia un paragone improprio, perché non si paragonano le pere con le mele, bisogna sempre tenerle distinte. Giacomo, grazie. Andiamo a Milano da Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno anche a lei. Lei è stato delicato, le pere con le mele, io avrei detto altro, ma sì, immagino sì, tipo dire. Immagino. Senta, l'Inter è antisportiva, sono dei provocatori. Allora le faccio un esempio, guardi. Io ho visto Bari fuori dal campo, sta dicendo fuori dal campo Luigi. No, ma proprio sono dei provocatori in campo, forse aiutati dalla società. Le faccio presente che Oriali è iniziato da domenica sera a parlare. Oriali non è in campo. Mm-hmm. Sì, vabbè, dai, però è la dirigenza che dà degli input ai giocatori, no? Allora, contro il Bari, Rizzoli, sfortunatamente, inavvertitamente, chiaramente non l'ha fatta apposta, ha toccato tre volte, io l'ho vista la partita, tre volte la palla e tutte e tre le volte è andata a finire ai giocatori dell'Inter. Ma questo per, come dire, non è che l'ha fatto apposta, no? Cioè non tramava contro il Bari. Sì, no, è vero, lei dice tre, io una la ricordo sicuro e forse anche un'altra. Questa è abbastanza vero. Snyder ieri sera era evidentemente caricato a pallettoni psicologicamente, perché già la reazione per quello che dice lei, cioè per questa ostruzione involontaria durante quell'azione, la reazione era stata un po' sproporzionata. È vero, c'è una discreta isteria collettiva, però stiamo parlando di nervosismo ambientale. No, che si trasmette ai giocatori. Io lascerei fuori la squadra da questo al momento, perché è vero che Snyder ieri sera ha commesso una sciocchezza, ma il film, la trama della partita è stata interpretata dall'Inter a meraviglia, ed è questo proprio il rischio, perché la squadra è andata in campo evidentemente carica, no? da queste sensazioni, da questa atmosfera, in maniera semplicemente perfetta. Però è ovvio che se sei appunto caricato a mille, poi il rischio dell'eccesso nervoso è evidentemente un pericolo concreto. Chiederei a un ascoltatore già in linea da Torino di attendere, perché non siamo lontani dall'intervallo di metà puntata, e così per provare ad aggiungere qualche argomento per la seconda parte mi domanderei, per esempio, non mi domanderei, segnalerei che per la prima volta la Sampdoria ha giocato senza Cassano in questa stagione e, sia pure molto fortunosamente, ha vinto a Udine, che l'Udinese ha ben ragione di lamentarsi per il trattamento, insomma, per due errori arbitrali di ieri, uno in particolare su Sanchez, e mi domando quale sia la competenza dei dirigenti calcistici di casa nostra, Juventus compresa, se adesso è alle prese con questa crisi enorme che riguarda Ferrara, e se a inizio stagione c'erano disoccupati i seguenti tre allenatori. Uno era Ranieri, e vabbè, la Juventus non lo poteva riprendere dopo averlo cacciato a tre giornate dalla fine. Gli altri due si chiamano Rossi e Mazzarri. Se voi esaminate il rendimento di Rossi, Ranieri e Mazzarri nella fase di campionato di loro pertinenza, beh, trovate un rendimento che oggi potrebbe creare problemi. Se fosse iniziato regolarmente con l'avvio della stagione, oggi potrebbe creare problemi di classifica veri alla stessa Inter. Si è rotto anche Marchisio, giusto per completare il panorama bianconero, no, non rotto in maniera grave, ma insomma una prognosi di almeno 20 giorni per una distrazione di primo grado al retto femorale, cioè per l'ennesimo stiramento muscolare in casa Juventus. Quest'anno Cioè, già l'anno scorso sembrava un'annata disastrosa dal punto di vista, come dire, preparatorio sanitario, ma quest'anno si sta andando certamente oltre quei record. C'era Alberto in linea a Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Sono un tifoso della Juve, lei mi ha dato l'ultima mazzata dopo 43 mazzate sui precedenti relative agli infortuni. Un paio di considerazioni molto molto veloci. La prima, se è d'accordo con me, penso che una panchina come quella dell'Inter debba essere abituata, per non dire educata, a stare in campo. Cioè veramente è una cosa ignobile certe volte vedere i comportamenti che ha la panchina, dal primo, parlo dell'allenatore, per finire all'ultimo dei componenti della panchina. Lo sentivo dire anche all'ex arbitro Casarin, che diceva che certamente si tratta di una panchina da educare a stare in campo, perché certe volte veramente vedere certe scene è ignobile. Detto questo, volevo aggiungere solo una cosa: ho fatto fatica a digerire Calciopoli, ancora oggi dopo 4 anni mi attacco al fatto che forse qualcuno un bel giorno metterà a posto almeno qualche cosa. Di contro devo dire che ieri sera ho visto, e mi fa molta fatica doverlo dire, ho visto una squadra fantastica, ben messa in campo. Sono d'accordo con Mourinho e mi duole doverlo essere, che se anche fossero stati in 7 avrebbero vinto, il Milan poteva giocare un'altra giornata, non avrebbe mai segnato. Tutto qui, grazie mille. Grazie, beh, per la verità il Milan è andato molto vicino invece a segnare in 3 o 4 occasioni, la prima su quella punizione deviata da Pirlo in cui Julio Cesar, anzi, se l'è vista dentro e la palla si era impennata un po' di più del dovuto nella fase iniziale del secondo tempo, come è normale se sei in inferiorità numerica e gli altri spingono forte, è solo una squadra di qualità, insomma, non è vero che non potesse segnare. È stato giusto così, perché il verdetto che è uscito da ieri sera è oggettivamente sacrosanto, per come la partita era cominciata e poi anche per come è continuata. Stefano Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno. Io chiamo per le dichiarazioni vergognose fatte dal signor Mourinho, dove ha dichiarato che se il campionato non verrà vinto dall'Inter sarà stato un campionato falsato. Quindi ha fatto delle dichiarazioni da fomentatore, cioè in un momento in cui dobbiamo rimanere tutti qua calmi, non si può fare quelle dichiarazioni. Al tempo stesso non si può dire che il campionato è nostro, non è il suo campionato. Accidenti, cioè lui è qui in Italia, prende i soldi italiani e ci dice che il campionato è nostro e non è il suo. In Inghilterra queste dichiarazioni non l'avrebbe mai fatti, non per no, niente. No, Stefano, non dica così, ne ha dette di peggio in Inghilterra. Mourinho è universale in questo. Anzi, un giorno o l'altro inviterò Nicola Roggero, che è un cultore di perle di Mourinho, ci racconterà e ci ricostruirà qualche prodezza verbale di Mourinho lassù, assolutamente in linea e in piena sintonia con quelle di qua. Con tutto questo, Stefano, ci sono delle volte in cui Mourinho è completamente gratuito e in quelle occasioni io lo trovo sinceramente detestabile, proprio su un piano di educazione sportiva. Nel caso di ieri sera lo capisco. Nel caso di ieri sera, se è scappata qualche parola o qualche considerazione o qualche sarcasmo di troppo alla fine, io credo che possa essere capito, perché comunque non è semplice gestire il nervosismo post partita di una partita così, cioè di una partita così tirata, così sofferta e in cui sinceramente il vento sembra soffiare pesantemente contro. Quindi nel caso di ieri sera io sto dalla parte di Mourinho, poi se ne avesse detta 2 o 3 in meno magari era meglio ancora, ma ci stavano. Daniele Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Amo il calcio e odio diciamo, chi non è sportivo, e mi riferisco ai tantissimi giocatori di Serie A che non aiutano certamente gli arbitri quando si tuffano appena sono sfiorati, appena gli si tocca la maglietta, trascinano le gambe. Sono cose vergognose che secondo me dovrebbero essere sanzionate con giornate di squalifica anche il giorno dopo, vedendo la moviola o vedendo le immagini, perché veramente un arbitro non sa più ma è caduto davvero, non è caduto, cioè sono uomini belli muscolosi che cadono come birilli appena vengono toccati. È un comportamento antisportivo che non fa onore. che non fa onore, soprattutto ai giocatori italiani, perché all'estero vedo cose ben diverse. La ringrazio. Grazie a lei, Daniele. Anche sì, è vero, cioè è vero in parte, in certi casi è vero in buona parte. Io poi insomma non farei d'ogni erba un fascio, perché poi il calcio è uno sport di contatto in cui si può anche cadere. Quando sei lanciato a tutta velocità non occorre un tir per farti andare per terra, può bastare meno, insomma. Quindi così per me è un po' esagerato. Poi certo, se c'è un problema vero, il problema più grave è quello della simulazione, perché per esempio Sanchez, questo cileno, mi pare, dell'Udinese, che è un giocatore molto forte, molto giovane, molto forte, di grande potenzialità, si era buttato qualche volta, no? in un passato cosa, e adesso sta pagando dazio. Ieri non gli ha dato un rigore addirittura clamoroso, ed è stato invece ammonito per simulazione. Ho l'impressione che se si rivede in qualche sequenza antica, capisca anche lui perché poi un arbitro non lo fa in malafede per punirlo, intendiamoci, lo fa perché ci sono giocatori che poi ti lasciano il sospetto. Cioè, c'era stato un periodo, per chi ha i capelli dei colori dei miei, che Chiarugi, sia al Milan che alla Fiorentina, non beccava più un rigore neanche quando lo svellevano dal campo, neanche quando lo non lo so cosa dovevano ancora fargli, ma non beccava più un rigore a forza di buttarsi. Antonio, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono tifoso della Juventus e dico che Ferrara ovviamente sta facendo malissimo, e questa è una cosa, diciamo, chiara. Ma voglio altrettanto dire che, diciamo, Ranieri non lo rimpiango per niente, perché figli di Ranieri sono pure Thiago, Paulsen, Almiron, Krenzevic, e potrei continuare ancora. Qualcuno potrà eccepire, ma vabbè, sarà la società a prendere. Però comunque lui non si è opposto e ha presentato Paulsen, cioè la registrazione a casa, Paulsen l'ha presentato dicendo è più forte di Sissoko. C'è un allenatore che dice che Paulsen è più forte di Sissoko. Secondo me andava già esonerato quando ha detto queste parole. Quanto lei cosa ne pensa? Io penso che allora, a questa stregua, pensi a Ferrara, che i rinforzi li ha presi addirittura per procura da Lippi, no? Visto che sappiamo che Grosso, che Cannavaro, che adesso probabilmente Candreva, no? sono suggerimenti del commissario tecnico. Io credo, vede, a questo proposito, credo che se noi la prendessimo sempre un tantinello più con ironia, anziché prenderla sempre in maniera seria e conflittuale, parlo del calcio, forse ci, oltre a divertirci di più, no? E a essere più sereni e ad avere meno problemi di ipertensione calcistica, ci divertiremmo davvero di più. Lei pensi, per esempio, a proposito di polemiche gratuite, a quella che Moratti ha imbastito la settimana scorsa sul fatto che Lippi aveva visitato il Milan e aveva visitato la Juventus, ma non l'Inter, no? Ma vuol provare a rivederla stamattina, quella, cioè adesso, per come sono andate le cose, quella polemica, no? Io sono pieno di messaggi che dicono: sono tifoso da Roma, non fateci venire Lippi, no? Che stiamo per dire. Quindi se tutte le cose fossero vissute con un pochino più di distacco e con un pochino più di ironia, ma pensi come sarebbe tanto più abitabile, no? Tanto più vivibile invece il calcio, e meglio abitato. Cristiano ha chiamato la provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Volevo fare una precisazione per quanto riguarda Mourinho, che prima un ascoltatore diceva che nessun giornalista ieri ha controbattuto le sue dichiarazioni. Mi sembra che su Rai 2 un certo commentatore Tombolini gli ha fatto presente che l'espulsione era nettamente, e lui gli ha fatto presente anche la storia della questione di Chievo, e lui di tutta sua, con la sua ironia, ha detto una sola, diciamo, un solo favoritismo in tutto il campionato. La fa più un vero pietoso, lasciamo stare. Un'altra cosa che volevo parlare dell'arbitraggio di ieri del derby è che secondo me viene dato da lei un figlio di collina, nel senso che quanto? Un figlio di collina in che senso? Nel senso che praticamente l'Inter, vediamo la partita contro la Roma, tanti falli che devono essere da espulsioni non date, Quindi praticamente Rocchi secondo me è partito così: primo fallo di Ronaldo l'ha fatto passare, primo fallo di Beckham ha detto basta, io ammonisco. Ha visto una simulazione di Lucio, di Lucio, anche se non c'era, e lui praticamente ha voluto intendere il giocatore di attenzione, non accetto niente. Poi all'ultimo minuto, diciamo, ha fatto quell'errore di... No, non credo, Cristiano, non credo che questa sia la chiave di lettura, a parte il fatto che magari Rocchi fosse figlio di Collina, cioè un Collina è proprio quello che manca oggi a noi, e cioè Collina sta, a parte mio, facendo un buon lavoro arbitrale, perché mi pare che quest'anno ci sia uno spirito diverso da un punto di vista arbitrale, che non vuol dire che non ci siano errori, ma intanto sono diminuiti notevolmente di numero. I guardaline sono da bravi a bravissimi, ripeto sempre mediamente. La media degli arbitraggi si è nettamente alzata, ma è la media. Manca la star, cioè manca manca il grande arbitro, manca quello che c'è. Inter Milan dice, vabbè, ma l'arbitro è quello, no? Per un Inter Milan del genere. E invece no, devi andare a cercare questo o quell'altro, e andando a cercare quell'altro, ieri sera Collina ha sbagliato, c'è poco da fare, perché Rocchi non era assolutamente all'altezza di questa partita. Beh, c'è qualche messaggio rancoroso, livoroso, ce ne sono tanti invece divertenti, questo lo è in maniera particolare. Visto come sta andando la Fiorentina, non è che adesso il Milan può cambiare la data del recupero, questa non è male, perché avendola posposta di un mese, e visto invece le condizioni miserande in cui sta versando la Fiorentina, dice, ma quasi quasi forse Gagliani potrebbe farci un pensiero, dice, ma giochiamoci il mercoledì, dai, l'Udinese, ecco, Pitaia, la rimandiamo con calma. Vero, anche perché la Fiorentina, insomma, sta cominciando a essere la seconda delusione del campionato, la prima sappiamo qual è, fuori classifica, ma la seconda, se parliamo di campionato, certo c'è sempre la grande qualificazione in Champions League, ma il campionato mi sembra che cominci a scricchiolare. Ripassiamo la storia con Nicola Filippone. 25 gennaio. Sembra ieri. 25 gennaio 1924. Si apre a Chamonix la prima edizione della Settimana Internazionale degli Sport Invernali, evento che l'anno successivo sarà rinominato retroattivamente Olimpiade Invernale. La prima medaglia d'oro nella storia dei giochi invernali se la giudicano gli Stati Uniti, grazie a Charles Jutrow nel pattinaggio di velocità. Alla fine dei giochi, però, in testa al medagliere ci sarà la Norvegia, con 4 ori, 7 argenti e 6 bronzi. Non ho ancora sentito, scrive Stefano, quelli che fino a domenica scorsa esaltavano Ronaldinho e Beckham. Ieri si è visto che ad alti livelli serve altro. Ma Stefano, sì, cioè, la figurina di destra di ieri sera un giorno o l'altro me la spiegheranno, sinceramente. Perché quella di sinistra, avendo avuto tutta la pazienza del mondo, di sinistra mica politica, per l'amor di Dio, avendo avuto tutta la pazienza che hanno avuto nei confronti di Ronaldinho, beh, insomma, prima o poi ne sono stati ripagati. Ronaldinho, quando è arrivato qui, ha 28 anni, adesso non è ancora 30. Insomma, un recupero di uno di quel talento aveva un senso tentarlo, anche se è costato, perché oggettivamente è costato, quella di destra, sinceramente, un giorno o l'altro qualcuno mi spiegherà perché ieri sera, per esempio, non può giocare Abate nel ruolo di Beckham e un terzino dietro di lui che non fa la fesseria di Abate sul gol di Milito, magari, così, giusto per dirne una, ma sono domande epocali che probabilmente non è il caso di porre. Claudio, tocca a Claudio da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Certo, forte e chiaro. Perfetto, io volevo dire una cosa da juventino. Secondo me la pochezza di Ferrara è saltata fuori quando, dopo le prime 3-4 partite in cui aveva imbroccato miracolosamente, viene da dire oggi, la posizione in campo di sia di Melo che di Diego, sono bastati 2-3 infortuni, una pausa come capitano sempre nelle stagioni, e alla ripresa di questi giocatori a pieno regime non è più riuscito a collocarli in campo nella posizione giusta, perché a me fa tristezza vedere Diego che deve venire nella sua metà campo a prendersi la palla e portarsela su quando nel Werder gliela portavano. Non so se è d'accordo con questo. Ma insomma, io credo che i segnali negativi da parte anche di Ferrara quest'anno non manchino, insomma, quando si arriva in una situazione del genere le responsabilità, cioè, lo so che è una frase fatta e banale, però la verità è quella, cioè, le responsabilità sono di tutti, il comandante ne ha sempre più degli altri, non solo per definizione, ma perché è così davvero. Non, però siamo sempre lì, cioè, faccio un esempio: Candreva è un rinforzo, Candreva è un giovane di talento, quindi da inserire gradatamente, per andare a un esempio concreto, da inserire gradatamente e su cui investire per il futuro, oppure è uno già di pronto uso? Lo dico perché il primo rinforzo del mercato che è arrivato, Paolucci, insomma, l'hanno buttato allo sbaraglio subito sul campo del Chievo. Lascia stare che hanno perso, ma non l'ha mai vista, non l'ha mai cosa, cioè un ragazzo così viene buttato allo sbaraglio, un ragazzo che da tempo stava facendo la riserva del Siena. Candreva è uno dei potenziali uomini nuovi del calcio italiano, no? Stava facendo molto bene a Livorno, Cosmi se ne va per la sua cessione, tra l'altro, è una delle ragioni per cui se ne va, ma altro è Livorno, altro la Juventus. Ha debuttato in nazionale, può darsi che faccia parte del pacchetto anche lui di suggerimenti di Lippi, che è una di quelle ragioni per cui Moratti dovrebbe ringraziare se Lippi non va da piano. Cioè, Candreva l'altra sera, quando la squadra rimane in 10 contro 11 e si capisce chiaramente che a quel punto il pareggio è comunque il, se non altro, il minore dei mali, non può farsi scappare Rise in quella maniera la seconda volta, no, che scappa, cioè la seconda volta che è decisivo, la prima espulsione di Buffon e la seconda facendosi piantare da Rise, che era 90 minuti che faceva su e giù mentre lui era entrato da un quarto d'ora. Ha sbagliato Candreva, o ha sbagliato qualcuno a comprarlo, o ha sbagliato Ferrara a impiegarlo in quel momento tattico della partita e in quel ruolo? Non lo so, ma alla fine è sempre un allenatore comunque responsabile di quelli che vanno in campo e di che cosa combinano in campo sul piano tattico. Sul piano tecnico è un altro discorso. Francesco da Torino, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senti, io volevo avere un suo parere su un paio di episodi. Io sono juventino, sabato sera ero allo stadio e praticamente Totti, in entrambe le occasioni dei gol della Roma, non so se poi sia stato ripreso da delle televisioni perché non ho più visto dei servizi in TV, ma praticamente si è rivolto entrambe le volte ai tifosi della Juve con dei gesti, insomma, nel primo caso gli ha indicato il muto, sì, e nel secondo caso a Torino praticamente c'erano delle barriere molto basse, lui si è avvicinato a distanza di 5 metri, addirittura ha battibeccato con dei tifosi della Juventus. Io trovo che da parte di un giocatore di quell'età, di quell'importanza, di quella levatura tecnica, credo che sia comunque il miglior giocatore italiano, il più talentuoso ancora in attività, trovo che comunque sia molto grave, ecco, e che forse sono atteggiamenti che andrebbero comunque puniti. Si parla di fair play, i giocatori entrano con le magliette, fair play e tutto quanto, lasciarsi poi andare a questo tipo di atteggiamenti che non fanno altro che far imbufalire ovviamente i tifosi avversari, che già hanno preso il gol e quindi contenti non sono. Sì, che però a sentire Totti lo hanno insultato per l'intera partita, ho letto e ho sentito accuse di questo genere che arrivano da Totti. Ora io non c'ero, quindi non le so dire se Totti ha ragione o ha torto in questo. Diciamo che anche se c'era una curva chiusa, diciamo che i precedenti più recenti, sia pure di segno diverso, non incoraggiano a pensare a un grande fair play che arriva dal pubblico, no? Dai cosiddetti spalti, e quindi va a sapere poi qual è la verità vera. Io non la so sicuramente. Un giocatore, un grande professionista, dovrebbe comunque turarsi le orecchie a prescindere, non sempre ci riesce, l'abbiamo imparato anche in tempi recenti questi. Questo Franco ha chiamato alla Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Una cosa volevo dire, volevo parlare di Ferrara. Sì. Sicuramente Ferrara avrà tutte le responsabilità, o quantomeno una parte delle responsabilità di questa situazione alla Juventus, però bisogna riconoscere che in questo momento non gliene va dritta una, non gliene va dritta. A parte la situazione degli infortunati, che è sicuramente grave, ma anche l'altra sera il giocatore più forte in questo momento, quantomeno il giocatore che si è dimostrato il più in forma, che è Chiellini, fa un errore talmente grave portando palla, perdendo palla al limite dell'area e si prende il gol. Fino a quel momento la Roma non aveva fatto praticamente nulla, cioè non mi ricordo un tiro in porta della Roma, non mi ricordo. Sì, no, ma è vero. È vero, ha fatto nulla, no, ma poco, decisamente poco, e anche la Juve ha fatto poco prima di questa invenzione del Piero. Però è vero, è normale che quando le cose girano storte, girano anche così. Anche quella è una spiegazione, però purtroppo succede. Roberto scrive: anch'io allo stadio per tutta la partita, i cori contro la moglie di Totti si sono sprecati. Ecco la risposta in diretta all'ascoltatore di prima. Grazie a tutti, grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a Giornale Radio.